Sono Alessandra, io non lavoro nel settore della cultura, ma stanotte ero con Chiara a cercare di dare un nome a questo canale Telegram. A quanto pare, insomma, alla fine ci siamo riusciti. Vorrei leggervi la scena quinta della vita di Galileo di Bertolt Brecht sulla peste, per restare nel mood della quarantena. È mattina presto, Galileo è chino sui suoi appunti presi al telescopio. Entra Virginia con una borsa da viaggio. Virginia, cosa è successo? Chiede Galileo. E Virginia risponde: il convento ha chiuso, dobbiamo tornare subito. Ad Arcetri ci sono 5 casi di peste. Qui, già da stanotte, la strada del mercato è sbarrata. Nel vecchio quartiere, dicono, ci sono già 2 morti e altri 3 sono moribondi all'ospedale. E Galileo dice: hanno tenuto nascosta ogni cosa fino all'ultimo, come sempre. Entra la governante, la signora Sarti. Cosa fai qui? E Virginia risponde: c'è la peste. Sempre la signora Sarti. Buon Dio, faccio le valigie. E si siede. Ma che valigie? Dice Galileo. Prendete Virginia e Andrea, io raccolgo i miei appunti. E torna correndo al suo tavolo, in gran fretta raccoglie carte qua e là. La signora Sarti fa indossare un mantello ad Andrea, che è arrivato di corsa, e ammucchia un po' di biancheria da letto e di cibaria. Entra un balletto della corte. In seguito al dilagare della malattia, Sua Altezza il Granduca è partito dalla città in direzione Bologna, però ha insistito perché anche il signor Galilei si è dato modo di mettersi in salvo. Tra 2 minuti ci sarà un calesse alla porta. La signora Sarti, rivolgendosi a Virginia ed Andrea, uscite subito voi due, prendete questa roba. Andrea chiede: ma perché? Se non mi spieghi il perché, io non esco. C'è la peste, figliolo. Aspettiamo il babbo, dice Virginia. E Galileo, avvolgendo il telescopio nella tovaglia, dice: scendete e fate scendere Virginia e Andrea nel calesse, io vengo subito. No, non ce ne andiamo senza di te, dice Virginia. Se cominci a imballare i libri non sarai mai pronto. La signora Sarti fa notare che la carrozza è arrivata. E Galileo dice: Virginia, sii ragionevole, se non scendete, non vi sedete nel calesse, il cocchiere parte. Non è una bazzeccola la peste. Virginia, protestando, mentre la signora Sarti la conduce via con Andrea, dice: aiutatela a prendere i libri, se no non viene. E la signora Sarti chiama dall'ingresso: signor Galileo, il cocchiere si rifiuta di aspettare. Galileo: signora Sarti, io credo che non devo partire. Qui c'è un gran disordine, sapete, appunti che sto prendendo da 3 mesi e che sono buoni da buttar via se non ci lavoro su ancora una notte o due. E la malattia non è solo qui, è dappertutto. Signor Galileo, vieni via subito, sei pazzo, dice la signora Sarti. Precedetemi voi con Virginia Andrea, io verrò dopo. La signora Sarti continua: tra un'ora nessuno potrà più partire, devi venire anche tu. Se ne sta andando, scendo a trattenerlo. Al cocchiere. Galileo cammina su e giù, la signora Sarti ritorna, pallidissima, non ha più il suo fardello. Cosa ci fate qui? Chiede Galileo. Volete che il calesse con i ragazzi parta senza di voi? La signora Sarti dice: sono già partiti. Virginia si dibatteva. Hanno dovuto tenerla. A Bologna ci sarà chi si prende cura di loro, ma voi? Chi vi porterebbe da mangiare? Sei impazzita, dice Galileo. Rimanere in città a farmi da cucina. E prendendo in mano i suoi appunti continua: non datemi del matto, signora Sarti. Non posso lasciare a mezzo queste annotazioni. Ho dei nemici potenti, devo raccogliere le prove. Per certi miei tesi. E la signora Sarti dice: non avete bisogno di scusarvi con me. Però non è un comportarsi da persona sensata.